Buonasera a tutti, ben ritrovati all'ascolto. Giorgio Stamatopoulos in studio e nel frattempo ci ha raggiunto il nostro ospite, così come annunciato. Dedichiamo quest'ultima parte stasera della nostra trasmissione a presentare un libro. Carlo Patrignani, giornalista dell'agenzia di stampa AGI. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Che ha scritto questo bel libro a metà tra il saggio e la biografia, insomma, che ricostruisce un'epoca storica attraverso una figura, insomma, di grande spessore umano e politico, quella di Riccardo Lombardi, insomma, uno dei padri della patria, potremmo dire, insomma, perlomeno della nostra Repubblica. È stato appunto partito d'azione, è stato nella Costituente, insomma, è stata una delle anime più importanti del Partito Socialista, almeno fino all'era Craxi, diciamo così. Quindi, insomma, quasi un secolo si è attraversato. Ecco, la domanda più banale, la prima sempre: perché scrivere un libro su Riccardo Lombardi, di cui tra l'altro ricorre il 25ennale della sua morte? Questo è un periodo di grandi ricorrenze, insomma. E il perché è molto semplice: perché per quello che è stato Riccardo Lombardi, per quello che ha rappresentato, come tu dicevi in apertura, per la storia della Repubblica Italiana, un acomunista, non marxista, non violento, una persona da ascrivere in un filone culturale e politico che si distacca dalle verità rivelate e cerca nel confronto e nella dialettica la soluzione possibile ai problemi delle persone, viste e vissute non soltanto e solamente come fruitori di un giusto salario, di una giusta di una casa, di una scuola, ma nel loro insieme, e cioè come esseri umani che aspirano, che vogliono, che esigono, che pretendono possibilità di realizzare una loro identità. Identità che è professionale, è sociale, ma è anche identità umana. E ho voluto scrivere questo libro scommettendo appunto su questa figura data per diciamo così sparita, per scomparsa dal panorama politico italiano, grazie al coraggio di due editori, giovanissimi editori, Lorenzo Fagioli e Matteo Fago dell'Asino d'Oro. E una nota di merito va anche ad una bravissima, non so se chiamarla collega, a Rossana Cecchi, la quale mi ha assistito, mi ha curato, tra virgolette, in tutto il periodo, diciamo così, della scrittura, della revisione, della messa a punto del libro. Quindi a loro tre va un particolare ringraziamento di questo libro, che cade, come poi tu dicevi, in un periodo in cui si festeggia il decennale della morte di Craxi, il ventennale di Pertini, il trentennale di Pietro Nenni, di tutta la famiglia socialista, ma Lombardi. Di Lombardi non si preferisce non parlare. Ecco, il leader più ammirato, ma anche meno ascoltato. Questo forse spiega in parte perché Lombardi non venga così dimenticato invece oggi. Non ascoltato non mi sembra il termine, diciamo, più corretto. Direi non compreso, perché aveva un linguaggio difficile, perché da genio della politica e da uomo di grande spessore culturale, quando uno fa discorsi difficili spesso paga il prezzo di un certo isolamento, cioè la gente non è disponibile subito, nell'immediato, a mettere in crisi una certa struttura di pensiero per acchiappare casomai una proposta nuova. Ci vuole il tempo prima che si comprenda il significato profondo di un certo messaggio. Ma la cosa che più mi preme di sottolineare di quest'uomo è che in lui non c'era l'inganno, non c'era la frode, non c'era, come posso dire, il dire una cosa e farne un'altra. Era un uomo profondamente onesto. se gli si chiedeva che cosa ti ha insegnato la vita, la risposta era immediata, innanzitutto ad essere onesto. E l'onestà non è tanto e soltanto il non rubare perché il poliziotto poi mi arresta, il magistrato mi condanna, no. L'onestà è un modo di essere, una pulizia di fondo che non mira al vantaggio personale, all'utile, non mira allo sfruttamento dell'altro per realizzare un proprio vantaggio, un proprio beneficio, semmai è il contrario. Ecco, tra l'altro, appunto, questa coerenza, questa condotta così onesta intellettualmente con se stesso e verso gli altri, vedremo poi che costerà anche grandi tormenti a Lombardi quando si arriverà poi alla stagione di Craxi, in qualche modo, no? Lui ci puntava, tutto sommato ci puntò, ma rimase deluso, poi appunto lo vedremo più avanti. Il titolo del libro si intitola Lombardi e il fenicottero, e a questo punto appunto l'hai già ricordato, edito per l'Asino d'Oro, questo fenicottero. Il fenicottero è un aviatto, è la donna che fu accanto a Riccardo per 52 anni, 52 capodanni, che era l'unica festa a cui Riccardo teneva. Solo il capodanno festeggiava. Ena era appunto un fenicottero perché durante la guerra partigiana, durante l'opposizione, lì effettivamente c'era bisogno di rispondere alla violenza fascista con violenza armata, perché il nemico non ti consente altro. E lei faceva la staffetta partigiana e portava al di qua e al di là delle Alpi, rischiando sempre la vita in ogni istante, materiale di stampa clandestino. Andava tra le mondine del Vercellese a fare propaganda. E lei vive una prima fase della sua militanza comunista accanto a persone che poi saranno espulse dal Partito Comunista: Ignazio Silone, Angelo Tasca, Leonetti, Ravazzoli, Tresso, e suoi amici, che all'improvviso si ritrovano fuori dal Partito Comunista, e per una logica stalinista, o stai con me o stai contro di me. Anche lei avrebbe dovuto avere un comportamento, come dire, di distanza da queste persone, ma lei se ne frega e continua a ritenere gli amici di ieri amici di oggi. E in quel momento particolare della sua vita, in cui lei sta insieme a Girolamo Di Causi, comunista, allora era in carcere, anche lei esce dal carcere, incontra in uno studio l'avvocato Aris, il famoso Riccardo Lombardi, l'Inge, il nome di battaglia da ingegnere. E lì scocca l'amore che durerà 52 anni, un amore poi che non viene mai consacrato, diciamo, davanti all'altare. Loro vivono in convivenza, a proposito anche tutto sommato poi del contesto storico, parliamo degli anni 30, 40, insomma, tutt'oggi vige una certa ipocrisia, no? Rispetto alla libertà di scelta, appunto, di convivere piuttosto che sposarsi. Anche in questo sono stati una coppia, diciamo, fuori dagli schemi, una coppia che amava discutere, una coppia che polemizzava liberamente. Lei dice espressamente: con Riccardo ho ritrovato un nuovo modo di vivere che prima non avevo. Basta con i classici Marx, Engels, eccetera eccetera, posso fare letture diverse, le letture dei grandi classici, le letture dei grandi romanzieri, quindi una vita totalmente diversa. Innamorata sì, ma non persa dietro l'uomo. Lei è stata sempre fortemente innamorata di Riccardo, gli è stata vicino fino agli ultimi giorni, alla madre. Senza mai però annullarsi come personalità, come indipendenza, bravo, critica. Bravo. E a questo punto riprendiamo appunto sul protagonista, ovvero Riccardo Lombardi. L'abbiamo introdotto appunto ripercorrendo la sua grande coerenza. Lui fu ministro, la diete, solo una volta, proprio il primo governo post-fascista, insomma, con De Gasperi, ministro dei trasporti, però poi capì subito che quell'aspetto della vita politica, della partecipazione politica non gli piaceva, non lo soddisfaceva, insomma non ebbe praticamente mai più incarichi di governo comunque importanti, però c'è la corrente lombardiana che tante personalità poi ha forgiato. Esatto, e la corrente lombardiana diciamo che è una, se volete, una corrente di pensiero, è il pensiero di Riccardo Lombardi. Lui credeva molto nella sfida delle idee. Le sue idee non erano dirette soltanto al Partito Socialista, le sue idee erano dirette alla sinistra in generale, erano idee, diciamo, a favore della emancipazione e del benessere, ripeto, non solo fisico ma anche psichico, anche di identità della povera gente, così come amava chiamare i più deboli, coloro i quali sono i più sfortunati. Le idee, per esempio, una rivoluzionaria fu la tenacia con cui lui perseguì, ma non fu, ecco, in questo caso ascoltato, la riduzione dell'orario di lavoro. Perché si chiedeva, chi ha detto che bisogna lavorare 6 giorni la settimana per 8 ore al giorno? Facciamo 3 giorni la settimana e il resto è vita libera, avremo una migliore qualità della vita, casomai avremo meno beni di consumo, meno cosmetici, meno auto, meno prodotti, che so io, di saponette, di dentifrici, eccetera, ma sicuramente guadagneremo in qualità della vita, guadagneremo in cultura, metteremo in condizioni tutti di poter apprezzare Picasso, per esempio. Certo. Un'idea rivoluzionaria che si concretizzò, ecco, questo lo voglio sottolineare, con un altro personaggio che fu molto vicino a Riccardo come pensiero, Bruno Trentin, con il primo contratto di lavoro dei metalmeccanici, quando furono introdotte per contratto il diritto alle 150 ore di formazione professionale per i lavoratori. Abbiamo nel frattempo un ospite al telefono, Michele Achilli, buonasera. Buonasera. E grazie per essere con noi. Ecco, Achilli, che tra l'altro insomma, ha militato a lungo tra le file socialiste, è stato in Parlamento, un suo personale ricordo, il personale ricordo di un socialista che insomma tra l'altro ha dato alle stampe anche un libro che si intitola L'alternativa socialista, con la prefazione proprio di Riccardo Lombardi. Beh sì, in effetti eravamo molto uniti nella battaglia interna al partito per un'alternativa, così allora si diceva. E quindi sono molti i ricordi che ci legano, per la verità. Uno in particolare che si ricorda delle tante battaglie politiche condotte insieme? Bah, forse il più significativo fu nel luglio del 76, quando all'Hotel Midas fu eletto Bettino Craxi come segretario del partito. E fu la prima rottura che io ebbi con Riccardo Lombardi, perché Lombardi sposò le teorie che i suoi giovani Cicchito e Signorile gli prospettavano, mentre Codignola, Paolo Leone e Dio non ci fidavamo di questo giovane rampante, e quindi votammo contro Craxi. Quello è stato l'unico episodio in cui mi sono seriamente arrabbiato con Riccardo. Però poi immaginiamo che l'ha perdonato quando Lombardi disse: un PSI così non ha motivo di esistere, siamo nell'84, insomma, ormai diciamo l'avvento dell'era Craxi ha dispiegato tutti i suoi effetti, no? No, ma in effetti Riccardo fu eletto presidente del Comitato Centrale, ma dette subito le dimissioni, perché l'innamoramento, se così si può dire, durò molto poco e subito la delusione arrivò. Senta, qui mi suggeriva Carlo Patrignani chiederle, anche se abbiamo pochissimo tempo in realtà per tenerla al telefono, che cosa successe nel lontano 1972, quando lei arrivò primo fra i non eletti, cosa successe in quel frangente? Sì, perché il PSI candidò Eugenio Scalfari nel collegio di Milano e in quello di Torino, con l'impegno che Scalfari poi avrebbe, se eletto, avrebbe scelto Torino. Invece Eugenio cambiò idea all'ultimo minuto e scelse Milano. In quel caso io ero il primo dei non eletti. Ma Riccardo fece una grande battaglia in direzione e disse che se non si dimetteva Scalfari si dimetteva lui, perché a quel tempo ero il suo allievo prediletto, come si suol dire. Quindi voleva garantirmi la riconferma, perché io ero deputato uscente, anzi uno dei più giovani deputati uscenti, e così Scalfari fu obbligato dalla direzione del partito a scegliere il Collegio di Torino. Ciao Michele, sono Carlo e ti volevo soltanto, diciamo così, perfezionare la cosa di questa famosa elezione del 72. La scelta di Scalfari su Torino, secondo te, da che cosa è che fu determinata? Perché lui si intestardì a scegliere Torino, a scegliere Milano per tenere Torino? Allora correva voce che ci fosse stato un intervento della Fiat? Ma questo si diceva, io invece sono convinto che Eugenio ci teneva ad essere deputato di Milano, perché in quel momento la Federazione di Milano e il clima politico milanese era molto effervescente e quindi metà della vita politica nazionale si svolgeva a Milano. Essere deputato di Milano era a quel tempo così, essere al centro un po' della vita politica, ecco. Torino, pur con tutto il rispetto dovuto, ma era decisamente periferica. Michele Achilli, grazie ancora per il tempo che ci ha concesso stasera. È stato un piacere ricordare Riccardo. A presto allora con Michele Achilli. Ecco, eravamo arrivati all'84, il tempo è poco, quindi insomma in mezzo poi nel libro c'è anche tutta la fase insomma dei rapporti con la Democrazia Cristiana di Aldo Moro, insomma, tanto per dirne uno, siamo intorno al 63-64, ma anche dopo, insomma, quello è sempre stato un rapporto lungo e articolato. Ma ecco, il craxi del Führerprinzip, il craxi che poi non piace, il PSI di Craxi che non piace ai Lombardi, che è un PSI che fa tavole rotonde, grandi convegni, ma è lontano dalla gente, dai problemi dei cittadini. Ecco, io ho un mio particolare, diciamo così, ricordo di quegli anni, anche perché sono quelli più vissuti, quelli più più partecipati. Io con tanti compagni che allora contestavano Riccardo rispetto alla scelta di Craxi, neanche a me piaceva, però lì bisogna rispettare diciamo così un impegno che Riccardo prese con quel gruppo dirigente, i famosi quarantenni. Si andò all'elezione di Craxi perché il partito era uscito con le ossa rotte dalle elezioni del 76, bisognava recuperare quello che veniva definito un orgoglio socialista. L'impostazione era su due gambe: l'autonomia e l'alternativa. Riccardo, che è stato sempre un autonomista per antonomasia, ci credette e ci puntò. Chi mancò quell'impegno fu Craxi, che trasformò l'autonomia in anticomunismo, l'alternativa in alternanza. E allora abbiamo proprio un minuto, insomma, pagò molto questa sua onestà, no, di cui parlavamo prima, questa sua visione molto limpida, cristallina delle cose. Ebbe delusioni da alcuni dei suoi figli, insomma, prediletti. Abbiamo il tempo giusto per citare il più eclatante, che tra l'altro tutt'oggi, insomma, ha un certo ruolo, è il capogruppo del PDL alla Camera, Fabrizio Cicchitto, che era un lombardiano. L'agenda narra che quando venne fuori lo scandalo P2 e l'iscrizione anche del suo Fabrizio Cicchitto, lui, nonostante ormai la veneranda età, 90 anni, trovò la forza di alzarsi dalla sedia e di prenderlo a sberle. È vero, a parte il fatto che lo obbligò a dichiarare pubblicamente questa cosa. Senti, io ho la testimonianza della segretaria, Gabriella Artois. Lei mi ha detto che verbalmente Riccardo perse la pazienza e quindi ci andò giù duro, ma mai si... Non è vera lei, questa lei cosa a questa cosa che lui alzasse le mani su Cicchitto non ci crede. Però quindi, insomma, resta questo, forse fatto, uno dei suoi più grandi dolori, insomma, della sua... Ma sai, dolori, io anche qui ho i miei dubbi conoscendo Riccardo. Cioè, lui nella sinistra, per come concepiva la sinistra, lui non ha mai contato le persone che entravano, uscivano, se ne andavano, poi tornavano. Lui non ha mai nominato nessuno erede, discepolo. Lui era un pensatore, era appunto un uomo di cultura che pensava, elaborava, progettava. Stava agli altri, come dire, in qualche modo misurarsi con questa enorme personalità. In un dispaccio della polizia fascista del 45, 43 si parla di un Lombardi dalla statura gigantesca. Ecco, noi abbiamo avuto a che fare con un gigante. con un gigante della cultura prestato alla politica. Dopodiché ognuno con questo deve fare i conti, e fare i conti significa continuamente, stando a contatto con questa persona, mettere in discussione e in crisi qualsiasi, diciamo, livello a cui a un certo punto uno è arrivato, perché c'è un nuovo da acchiappare. Lombardi e il fenicottero per le edizioni L'Asino d'Oro. Carlo Patrignani, grazie ancora per essere stato in studio con noi stasera. Grazie a voi. Si chiude qui anche questo appuntamento con Edizione della Sera, che dunque torna domani come al solito, puntuale. Grazie ancora a Gianpaolo Catanzaro, che questa sera cura la parte tecnica delle nostre trasmissioni. A tutti voi per averci seguiti fin qui, una buona serata e a domani.